voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Margherita Mastromauro e riscossa. Penne e spaghetti in Puglia dal 1902. Di Alessandra Tedesco. Se c'è un prodotto del Made in Italy amato nel mondo, è sicuramente la pasta. Non c'è regione d'Italia che non abbia i suoi produttori. La Puglia, grazie anche all'ampia disponibilità di materia prima, ossia il grano duro, è una delle zone dove diversi pastifici hanno fatto la storia dell'impresa locale. È il caso del pastificio Riscossa, unica sede a Corato, in provincia di Bari. Una settantina di dipendenti diretti e alcuni servizi esternalizzati. Circa 600.000 quintali di pasta prodotti ogni anno. Tutto ebbe inizio più di un secolo fa grazie a Leonardo Mastromauro. Oggi, alla guida del pastificio, c'è la quarta generazione della famiglia. Margherita Mastromauro è alla direzione generale dell'azienda. Il pastificio Riscossa, anzi la pasta Riscossa, nasce nel 1902, come riportato tra l'altro in etichetta nel marchio del prodotto. Il fondatore, l'ideatore dell'iniziativa è stato il bisnonno Leonardo Mastromauro, il quale ovviamente agli inizi del Novecento cominciò con un semplice laboratorio artigianale, quindi aveva dei locali sotto l'abitazione in piazza Cannizzaro 7 a Corato, che adibì a produzione artigianale di pasta, che veniva poi essiccata addirittura nel piazzale esterno antistante ai locali, perché all'epoca la pasta si essiccava ancora al sole, diciamo, all'aria aperta. La prima struttura aziendale risale agli anni 50 ed è stato il periodo successivo, diciamo post bellico, periodo in cui i miei nonni, quindi i figli di Leonardo, erano emigrati negli Stati Uniti per ovviare alle difficoltà economiche del momento, e avevano, attraverso un'attività che si avevano messo in piedi, che era la distribuzione del ghiaccio e del carbone, avevano messo da parte un po' di risparmi, li avevano mandati in Italia, e quindi con questi risparmi si era riusciti a mettere in piedi il primo stabilimento industriale, appunto, dicevo, negli anni 50, sempre a Corato, in via Paisiello, quindi sempre nel centro della città. Era una prima tipologia di stabilimento industriale, però non c'era ancora la produzione su linea continua, quindi era a più livelli, su tre livelli, e quindi diciamo che la produzione era la primissima produzione industriale, ma con un'incidenza di manualità ancora molto molto elevata. Da laboratorio artigianale al primo stabilimento industriale degli anni 50. Ma la vera svolta per Riscossa arriva negli anni 80, grazie a un altro Leonardo Mastromauro, nipote del fondatore. Erano gli anni dell'innovazione tecnologica. Venne venduto il vecchio stabilimento al centro del paese e fu comprato un terreno in zona industriale di Corato, dove ancora oggi c'è lo stabilimento della pasta Riscossa. L'azienda fu ampliata, ma soprattutto furono rinnovate le linee di produzione e i macchinari adeguati alla nuova legislazione. L'altra grande svolta è merito della quarta generazione dei Mastromauro, di cui Margherita fa parte. Se infatti negli anni 90 il pastificio Riscossa fatturava sui 20 miliardi di lire, con la nuova guida il fatturato è quadruplicato, arrivando agli attuali 40 milioni di euro. Fatturato su cui l'export, soprattutto nell'Europa dell'Est, pesa parecchio. Pastificio Riscossa si rivolge oggi per il 40% al mercato nazionale, per il 60% al mercato estero. E devo dire che questo è per noi stato un grande valore, perché ci ha consentito anche in momenti di crisi di avere delle crescite in termini appunto di quantità e di volumi e di fatturati, che se fossimo stati concentrati molto di più sul mercato nazionale probabilmente non avremmo ottenuto. Diciamo che noi siamo passati nel corso del tempo a percentuali sempre più elevate, da un 20% negli anni 50 al 60% di oggi, quindi c'è stato indubbiamente un salto di qualità anche in quello. E quindi diciamo che questa vocazione all'export che ci ha sempre caratterizzati sin dagli esordi, dalla nascita, l'abbiamo mantenuta incrementata nel tempo. Quindi noi siamo per fare gli ambasciatori del Made in Italy nel mondo e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. I paesi verso cui esportiamo sono oltre 70 in tutto il mondo e ovviamente cerchiamo di concentrarci su quei paesi che hanno più possibilità di incremento di consumi, quindi paesi emergenti, paesi in sviluppo. In questo momento siamo molto concentrati sulla Cina, sulla Russia, che hanno un interesse particolare nei confronti del Made in Italy, lo manifestano e comprano molto volentieri i nostri prodotti, ne apprezzano la qualità. Il marchio Riscossa non è soltanto pasta, ma potremmo dire soprattutto pasta. Negli ultimi anni sono nati altri prodotti, ma il cuore pulsante dell'azienda rimane quello di 100 anni fa. Noi abbiamo una gamma di prodotti di pasta di circa 120 formati, quindi una varietà immensa. È ovvio che i formati cosiddetti altovendenti sono non più di una quindicina, una ventina, sono quelli più conosciuti, dalla penna rigata allo spaghetto, ma anche la tagliatella, e quindi ci sono alcuni formati decisamente più venduti. E voluto nel tempo il mix dei prodotti, nel senso che anche se noi tutt'oggi manteniamo una vocazione, a differenza di altre aziende, di altri pastifici, molto più legata alla pasta, infatti diciamo che il 90% del nostro fatturato è pasta, però ecco, abbiamo affiancato una serie di altri prodotti commercializzati, quindi che non sono proprio di nostra produzione, ma che selezioniamo e a cui apponiamo il nostro brand, per cercare di venire incontro soprattutto alle esigenze del dettaglio. Di conseguenza sono proprio questi dettaglianti che hanno portato, diciamo, l'esigenza di avere una gamma di prodotti più ampia, di avere a fianco la pasta, il pelato, la passata, piuttosto che l'olio o altri prodotti tipici, no, della nostra regione, e quindi abbiamo cercato di creare un mix che potesse soddisfare anche queste esigenze. Anche in un settore tradizionale come quello della pasta, l'innovazione tecnologica è fondamentale. Negli ultimi anni, Riscossa ha fatto una serie di investimenti in questo senso, come spiega ancora Margherita Mastromauro. C'è sempre un'attenzione particolare alla tecnologia, intanto per assicurare determinati standard di qualità, poi per garantire sempre una maggiore produttività, perché comunque non dobbiamo nasconderci che questo è un prodotto che ha un valore aggiunto molto molto ridotto. E quindi in questo settore bisogna essere veramente molto molto bravi a far quadrare i conti. Allora, la produttività è un elemento fondamentale da salvaguardare, per cui non nascondiamoci che l'innovazione tecnologica è fondamentale anche per garantire il massimo della produttività insieme a un'organizzazione aziendale, no? Fatta di conseguenza. E quindi l'innovazione tecnologica si è concentrata principalmente sulle linee produttive, però ultimamente, proprio l'ultimo investimento in corso, ha riguardato anche lo stoccaggio delle semole. Abbiamo raddoppiato lo stoccaggio per garantire la possibilità di controllare meglio le miscele, di differenziarle ove ve ne fosse bisogno per prodotti premium, per esempio, prodotto in bronzo premium rispetto al prodotto classico, quello più industriale, quello per intenderci che va nel supermercato. E poi anche sulla logistica, perché comunque anche la logistica oggi è una componente di servizio molto importante che la distribuzione richiede, sia particolarmente efficiente, quindi anche su quello abbiamo dovuto investire. Dal 2008 in poi la crisi, si sa, ha investito tutti, anche se il settore agroalimentare e soprattutto il pastaio ha subito meno degli altri. La ricetta per affrontarla? Solidità finanziaria e nuovi prodotti. Nel caso specifico del pastificio Riscossa, io credo che un elemento importante sia stata la solidità finanziaria dell'azienda, perché Questo è in tempi di crisi, quando il credito diminuisce, è fondamentale avere una situazione finanziaria solida, dei rating positivi che ti consentono, nonostante la crisi, di continuare a investire, ed è quello che noi abbiamo fatto in questi ultimi 20 anni, abbiamo continuato sempre a fare. Quindi la crisi l'abbiamo fronteggiata principalmente salvaguardando la solidità finanziaria dell'azienda, il cash flow, cioè avendo la consapevolezza di dover lavorare con un'azienda sana innanzitutto. Poi è chiaro, la crisi si fronteggia anche facendo del proprio meglio e cercando di migliorarsi nella offerta di prodotti, di qualità, nel cercare di venire incontro alle esigenze dei consumatori globali e quindi diciamo che abbiamo per esempio inserito dei nuovi brand con delle caratteristiche anche di etichettature particolari perché erano richieste da determinati paesi, e anche questo è stato un elemento diciamo importante per affrontare nuovi mercati e cercare di continuare a crescere malgrado la crisi europea. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.